Io sono felice di riaprire la stagione e poi, come al solito, mi dileguerò. Mi dileguerò nuovamente, ma ho approfittato, diciamo, di un momento di vaga tregua nella mia esistenza e la prima cosa che ho fatto rientrando dalle vacanze è stato Coxo. Vengo al Coxo. Yeah. La prima cosa che faccio a Bologna. Ma fantastico, benissimo. Quindi veramente riniziamo l'anno a Radio Città Fujiko, veramente molto bene, a completo. Stasera diamo il benvenuto a Archivio Z. Bentrovati Enrica, Gianluca, ben arrivati, benvenuti. Grazie. Allora, Archivio Z ci parlerà di quello che si sta facendo a Villa Aldini, di quello che ha fatto quest'estate al Passo della Futa, e io poi sono curiosissima di chiedervi soprattutto anche ho letto questo articolo sul giornale che parlava appunto di alcuni esterni di Pasolini girati a Villa Aldini, quindi mi interessava anche tantissimo questa cosa. Quando l'ho letto ho detto wow, non l'avevo riconosciuta, non lo sapevo. E Archivio Z, come vi presentate? Quando siete nati e chi siete? Chi siamo? Domandona. Da dove venite? Dove chi siete? Dove andate? Ah, un fiorino sì, certo, un fiorino sì. Allora, noi siamo nati. Poi io ho detto Gianluca ed Enrica, però stiamo parlando di Gianluca Guidotti ed Enrica San Giovanni. Poi ovviamente su coxospaziale.blogspot.com troverete anche il loro sito internet archiviozeta.eu e i loro riferimenti più specifici. Ho lanciato qualche domanda un pochino così come un sasso in un lago, anche perché così mi concentro a capire se le cose che sto facendo in regia sono giuste o no. Perché sto sudando benissimo. Tantissimo da questa parte. Stai andando benissimo. Okay. O come direbbe Gianni Morandi, stai andando forte. Infatti, soprattutto che non ci sono delle interruzioni indebite, no? Cioè, molto più polite la conduzione di mia. Vero? Sì, assolutamente. Sono d'accordissimo. Grazie, Chiara. Torna sempre. Vado a casa. Ciao. Ciao. Allora, noi in realtà siamo nati molti anni fa, nel 1999, sono molti anni che quindi esistiamo come Archivio Z. Inizialmente abbiamo avuto una vita abbastanza clandestina, noi la definiamo una sorta di confino, un confino senza confini in Appennino, dove abbiamo vissuto 15 anni e da qualche anno stiamo a Bologna. Esattamente dal 2015 siamo venuti a Bologna con un intento ben preciso, che era quello di celebrare 40 anni dalla morte di Pierpaolo Pasolini in un luogo dove ci ha condotto Elena Pirazzoli, che è un'amica, è una storica che salutiamo, è un'amica anche ciao nostra. Ciao Elena, assolutamente. Che ci ha condotto in questo luogo a Villa Aldini che non conoscevamo, ci ha portato lì davanti e ci ha detto beh, qui Pasolini ha girato alcuni esterni del suo ultimo film, cioè Salò o le 120 giornate di Sodoma, un film del 75. Noi stavamo facendo i sopralluoghi per trovare un posto dove ambientare una scena, un episodio del nostro Pilade, che è una tragedia di Pasolini che quell'anno avevamo deciso di mettere in scena, e da lì è nato l'innamoramento per questa villa, che era all'epoca in stato di semi-abbandono. C'era un centro di accoglienza per richiedenti asilo all'ingresso, da lì abbiamo iniziato un laboratorio con i migranti che sono diventati parte dello spettacolo, facevano le rinni nel coro e abbiamo fatto qualche replica nel mese di settembre e poi anche una inizio della maratona del Pilade che fu proprio il 2 di novembre del 2015, che iniziava all'alba a Villa Aldini e si concludeva poi dopo varie tappe alla Pensilina Nervi, che adesso è stata ristrutturata e che all'epoca era anche quella in stato di semi-abbandono. Quindi era me la ricordo infatti Villa Aldini semi-abbandonata, una volta ci capitai per caso e trovai questa situazione piuttosto così anche un po' kafkiana, devo dire, perché in questa villa mozzafiato con un paesaggio, una vista su Bologna veramente bellissimi e una vita così spontanea, un ingresso così aperto, quindi mi fa piacere anche scoprire come siete cominciati ad essere, entrare in relazione con questo spazio, anche questo laboratorio di cui parli, Gianluca, molto interessante. Sì, quindi abbiamo iniziato a vivere questo, ad abitare questo luogo nel corso del tempo, e finché nel 2019 noi abbiamo avuto dei problemi con il cimitero militare germanico del Passo della Futa, dove da 20 anni noi facciamo degli spettacoli nel corso dell'estate, e a causa del Covid. Certo. E quindi abbiamo trascorso l'estate a Villa Aldini, perché il comune, l'assessore alla cultura all'epoca era proprio Lepore, ci propose di fare Antigone dentro Villa Aldini. Da lì è nata una vera e propria residenza, perché abbiamo cercato di recuperare il parco, e dall'anno scorso Villa Aldini fa parte di Bologna Estate, e abbiamo preso sede nell'unica parte agibile interna della villa attualmente, che è l'ex casa del custode, dove noi facciamo le prove, abbiamo una sede, diciamo, durante i mesi anche invernali, e nel progetto di riqualificazione della villa tutto questo dovrebbe rappresentare un prototipo, un modo di vivere quegli spazi in relazione alle residenze artistiche, alle ospitalità a più livelli, che riguardano un po' tutte le discipline: teatro, danza, musica, arti, performance. Quindi diciamo che è un modo che abbiamo utilizzato negli ultimi 2 anni per recuperare il parco, per recuperare culturalmente una vita, diciamo, dentro gli spazi agibili, e speriamo che questo nei prossimi anni possa diventare un luogo di cultura a tutti gli effetti, un bene comune di tutta la cittadinanza. C'è un progetto che il comune sta portando avanti grazie ai fondi del PNR, quindi diciamo la destinazione futura sarà quella di un centro per le arti contemporanee, e anche un luogo di sperimentazione della didattica. L'idea è quella, anche in collaborazione con la Fondazione Villa Ghigi, di farne una scuola nel bosco. Dunque questa è una cosa che non sarà solo estiva, giusto? Cioè una roba che durerà tutto l'anno. Sì, sarà una perché roba. Sai, sta succedendo una cosa strana, ovvero questa. Adesso vai, alza il vinile, perché qua ci sono i Righiera che devono dire una cosa. L'estate sta finendo e un anno se ne va. Sto diventando grande, lo sai che non mi va. In spiaggia di ombrelloni non ce ne sono più. È il solito rituale, ma ora manchi tu. Io sono ancora solo, non è una novità. dicevo offline che ho comprato questo vinile a Modena in un mercatino. Io devo dire però che forse bisognerebbe cambiare il ritornello, perché la generazione di quelli che ascoltavano queste hit non stanno diventando grandi, stanno diventando vecchi. Soprattutto, lo sai che non mi va. Soprattutto sì. L'estate non finisce più, cioè. Sì, no, esatto. Cioè, ci sono un paio di problemi che hanno in questa canzone. Esatto. Deve fare un remix anni 2020. Sì. Comunque bellissimo anche la copertina del disco. Ce la metteremo nel foto. Ve la faccio vedere da qua. Sì, Fronte, con il retro nell'ombra. Il retro nell'ombra. Wow. Cioè, che biondi. Notevolissimi. I righeira. Che biondi, ragazzi. No, invece abbiamo un altro pezzo da farvi sentire che è posso dire che è quasi peggio. No, non posso, no. Perché ma lo stiamo così direttamente. Io avevo delle domande. Da, fai una domanda, vai. Sono onoratissima di essere qui con Archivio Z, cosa totalmente casuale, perché io sono venuta così al buio, no? Al buio, cioè, no, ma infatti. Appuntamento al buio. Blind. Chi c'è? Esatto. Blind. Chi c'è, piace? C'è? Scopro che c'è anche una Enrica San Giovanni, è una mia compagna di lettrice, di letture selvagge. Letture selvagge. E quindi salutiamo anche il gruppo, naturalmente. Assolutamente. Coordinato da Simona Brighetti, si può dire. Esatto. Che salutiamo anche lei. E Silvia Giul, che sono esatto. le due ideatrici geniali delle letture. Simona non so quanti libri legge al secondo, non so come faccia, e ci stende tutte. Comunque stavo curiosando qua sul sito di Archivio Z, che è molto facile, archiviozeta.eu. Io non sapevo che eravate voi quelli del cimitero germanico del Passo della Futa, una cosa mitica. Sono onoratissima, ma vedo che ha ripreso comunque adesso anche questa parte. Sì, abbiamo ripreso anche l'anno scorso, abbiamo fatto un ciclo di repliche, ma in realtà la ripresa vera è stata quest'anno, e abbiamo inaugurato un nuovo progetto triennale dedicato a Thomas Mann. E in particolare alla Montagna Incantata ad Zauberberg, e ci siamo dedicati tutto l'inverno a fare la riduzione delle prime 500 pagine. Quindi cioè, l'anno una cosa leggera. Faremo la riduzione delle seconde 500. Abbiamo lasciato tutto il nostro pubblico in una situazione di suspense totale. Ma chi non ha visto questa prima parte non l'ha persa per sempre. No, ecco, riprendere. No, il progetto prevede, certo. Sono una montagna incantatista. Allora, quest'anno abbiamo fatto le prime 500, l'anno prossimo le successive 500, e il terzo anno dovremo fare delle maratone e rappresentarlo a serate alterne. Vediamo, insomma, se ce la facciamo. 500 più 500. Esatto. 500 più 500. Fantastico. Abbiamo rapito, perché noi siamo anziani ormai. Non è vero. No, però abbiamo rapito degli attori giovani, perché i protagonisti della Montagna Incantata sono tutti poco più che ventenni, e quindi abbiamo formato una compagnia straordinaria che ha lavorato da primavera per più di 2 mesi. Li voglio nominare perché sono degli attori molto bravi: Diana Dardi, Puria Josh Tirgan, Giuseppe Lo Sacco, Andrea Maffetti e Giacomo Tamburini. Con loro abbiamo costruito un nuovo gruppo di lavoro che si dedicherà nei prossimi mesi alla seconda parte. Quindi poi avevamo dopo anche un violoncello dal vivo, un violoncellista, Francesco Canfailla, bravissimo, che era in scena e quindi interpretava ciò che rimane dell'orchestra del Berghoff. Ed era appunto un violoncello che però devo dire che ha tenuto botta e ha fatto un'intera sulla orchestra. Partitura, sulla partitura di Patrizio Barontini, che lavora con noi da 20 anni. Che meraviglia, meraviglia. Enrica San Giovanni, tu fai la parte che per me è un'icona, certo. E devo dire molto su me, per chi ha letto la Montagna Incantata, spero di pronunciarlo bene, Madame Chauchat. Certo, mi sono molto divertita con questi zigomi, Kirghisi, finalmente ha un volto. Mi sono molto divertita a fare Madame Chauchat, è stato molto divertente perché incredibilmente la Montagna Incantata fa ridere, cioè vi do questa notizia, perché voi uno non è che ascolta ora Thomas Mann sente dire Thomas Mann e scappa, può affrontarlo? Assolutamente, può affrontarlo. Guarda, vorrei c'era qualcuno che questo, fa un blocco, ecco, no? 500 no. Thomas Mann dice no, ok, non sono... invece riesci ad entrare in una maniera anche ironica o divertente, no? Assolutamente, totalmente ironica, guarda, è proprio da ridere, cioè io ho iniziato la lettura di questo romanzo diversi anni fa e appunto perché noi eravamo già un po' di anni che ci pensavamo, perché abitare un luogo come il cimitero militare germanico, sì, del Passo della Futa non è affatto semplice, perché non è un luogo nel quale ti riconosci con semplicità, è il luogo dei nemici dove sono sepolti per sì, quanto giovanissimi, perché hanno tra i 16 sì, e i 21 anni la maggior parte, quindi diciamo che sei di fronte a un'ecatombe di ragazzini mandati all'ultimo da Hitler a affrontare proprio la linea difensiva che era la linea gotica, e quindi morti lungo la linea gotica e sepolti tutti lì nel dopoguerra, quando non si sapeva proprio dove mettere tutti i corpi di questi giovanissimi che affioravano dai campi, dagli orti. Mamma mia. E pensate la cosa incredibile, noi abbiamo fatto un sacco di ricerche e da tutte queste ricerche, proprio con Elena Pirazzoli, abbiamo fatto un libro che si chiama Teatro di Marte, nel quale abbiamo pubblicato tutte le ricerche sulla storia, sulla genesi di questo luogo incredibile che abbiamo scoperto essere unico. Quando sì, noi 20 anni fa siamo entrati in questo posto, abbiamo detto no, vabbè, qui ci dobbiamo fare degli spettacoli, le persone devono venire qui e noi dobbiamo fare in modo che loro facciano un salto temporale ma anche intellettuale. Cioè io non voglio parlare direttamente della Seconda Guerra Mondiale qui dentro, non voglio parlare di quello che è accaduto proprio a stretto contatto con questi ragazzi, però devo fare in modo che le persone guardando queste tombe ci riconoscano l'universale, certo, cioè un destino umano che è quello a volte appunto anche di combattere dalla parte sbagliata, di morire giovanissimi, di essere cresciuti con ideali sbagliati, sì, loro avevano, noi abbiamo rintracciato anche dei diari grazie agli studi incredibili di Carlo Gentile dell'Università di Colonia, abbiamo addirittura rintracciato i diari di un ragazzino di 16 anni, mamma sepolto mia, lì, il suo diario aveva i disegnini, gli orsetti, gli elfi e accanto delle svastiche, cioè proprio senza rendersi conto era passato dall'infanzia all'adolescenza con in testa, no? Hitler, l'antisemitismo, il razzismo, certo, certo, il fascismo, il nazismo e quindi aveva dentro di sé qualcosa che però poveretto non è riuscito a, no? A nemmeno a rendersi certo, conto che era una cosa completamente folle, certo, quella... il diario scolastico di un, sì, un adolescente tedesco, sì, in cresciuto in anni, quel momento lì, chissà noi oggi cresciuti ora che cosa abbiamo nella testa, perché poi questo è un discorso che va poi a lavorare all'interno del mondo che viviamo oggi, no? avete alzato troppo la conversazione e io mi dispiace la devo riabbassare. Prego, riabbassiamola subito. No, esatto, penso che avevamo cercato, esatto, di tamponare, perché è una guerra continua qua, è chiaro, naturalmente. Esatto. Dunque vi volevo far sentire un pezzo che deve ancora uscire. Deve ancora uscire un inedito. Un inedito, no, il 24 agosto è passato, allora è uscito il 24 agosto, mi sono sbagliato, un pochino uscito da poco, si intitola I mostri non stanno sotto il letto ma stanno nella cassetta della posta e lui si chiama lui si chiama il Re Tarantola, che è un cantautore punk alternativo di Bienno in provincia di Brescia, che caratterizza i suoi lavori da testi ironici che adesso poi sentiremo, eccetera, e niente, sta per fare un nuovo disco e ringraziamo il Piccio che ci ha mandato questo, che si chiama I mostri non stanno nella cassetta della posta. Ciao Piccio. La lavatrice è un mondo magico dove i calzini si trasformano in fazzoletti carta bagnati e di seconda mano. Gli ospedali sono i nuovi centri sociali, ormai gli amici drogati li incontro solo lì, li incontro solo lì. I mostri non stanno sotto il letto, ma stanno nella cassetta della posta, soprattutto se è da quasi un mese che non la controlli più, che non la controlli più. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Se fossi una donna scriverei solamente sotto ciclo, non indosserei la gonna più volte di quelle che le indosso già, che le indosso già. Tutte le volte che dico una cazzata e qualcuno mi consiglia di farne una canzone muore, una canzone muore. Mostri non stanno sotto il letto, ma stanno nella cassetta della posta, soprattutto se è da quasi un mese che non la controlli più, che non la controlli più. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Sto cercando di calcolare quanti soldi ho speso accendendo le sigarette dal gas della cucina. Potrebbe essere che Gesù e Cristo siano stati due gemelli, che Cristo sia morto sulla croce e Gesù si è apparso tre giorni dopo, apparso tre giorni dopo. I mostri non stanno sotto il letto, ma stanno nella cassetta della posta, soprattutto se è da quasi un mese che non la controlli più, che non la controlli più. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Saudades do Brasil. Coxo spaziale. Basta. Ci siamo? Siamo tornati. Così, inaspettatamente. Siamo di nuovo tutti qua? Abbastanza, sì. Siamo tutti qua. Siamo tutti qua. Incredibile. C'è anche. Dunque, ben tornati, faccio io, perché mi è rimasta un attimo senza parole, allora faccio io. Bentornati a Coxo Spaziale. Su Radio Città Fujiko. E siamo qui con Archivio Z. Che ci racconta. Ma non hai una domanda sulle residenze artistiche che fanno Villardini? Sì, avevo proprio una domanda. Volevo chiedere, ma queste residenze artistiche, proprio una risposta. Queste residenze artistiche che fate a Villaldini, ma come funzionano? Come funziona? Dove ci si iscrive? Con chi sono? Allora, innanzitutto la questione è un po' questa. Noi abbiamo deciso che Villaldini doveva essere il più possibile aperta, quindi dalla primavera inoltrata fino all'autunno inoltrato, ma probabilmente poi continueremo anche con qualche attività durante l'inverno. Ci siamo inventati questa sorta di rassegna, diciamo, chiamiamola così, festival, che si chiama In Osservanza. Questo perché la collina su cui si trova Villaldini è proprio la collina dell'Osservanza, si fa via dell'Osservanza per arrivare da noi. Quindi noi abbiamo semplicemente deciso che era una parola che ci serviva anche per ragionare sull'osservare la città dall'alto. Quindi diciamo siamo in osservanza, siamo sull'osservanza, ma anche in osservanza della città, che si vede benissimo appunto dal prato antistante la villa. Secondo noi è un luogo dove gli artisti, quando dico artisti intendo artisti ma di moltissime discipline, quindi non soltanto del teatro, possono, diciamo, stare, abitare quel luogo e immaginare di o lavorare con i cittadini, con, oppure con altri professionisti, altri artisti e artisti, oppure presentare dei lavori. E quindi diciamo che quindi la rassegna è estremamente eterogenea. Abbiamo avuto esperienze di artisti che hanno lavorato la terracotta, piuttosto che danzatori, danzatrici. Abbiamo un'esperienza bellissima con Manuela Ara legata al clown e quindi alla scoperta del clown che è dentro ognuno di noi. Lavoriamo moltissimo sui libri, abbiamo un club di lettura che si chiama Incipit, che tutto settembre sarà il sabato sera al tramonto. Ecco, c'è da dire che a Villaldini si sta particolarmente bene nelle ore vicine al tramonto. Il tramonto da Villaldini è qualcosa superbo, che non esatto. si può assolutamente si conosce Bologna se non si vede esatto. E tra l'altro, appunto, si ha uno sguardo sulla città incredibile, perché si vedono le due torri, San Petronio, vicinissimi. C'è ancora anche un angolo ristoro o no? Allora non c'è in questo momento, perché non abbiamo trovato ancora la collaborazione giusta, ma confidiamo il prossimo anno, insomma, speriamo di riuscire a ritrovare una quindi collaborazione. Ci si può portare le birrette da casa, per dire. Sì, ci si può portare una coperta, sedersi lì, e sicuramente, certo. E in questo momento c'è allestita anche una mostra, perché noi, appunto, come vi dicevamo, abbiamo ritrovato le foto di Pasolini che gira le scene di Salò a Villaldini. Le abbiamo ritrovate grazie a Gianluca Farinelli e Roberto Chiesi della Cineteca di Bologna, che ci hanno rimandato al Cinema Zero di Pordenone, e lì abbiamo trovato questo archivio bellissimo di Deborah Imhoggenbeer, che era la compagna di Gideon Bachmann, che ha scattato foto meravigliose sul set. Quindi ci siamo messi lì, abbiamo guardato tutte queste fotografie, abbiamo rintracciato Villaldini e le abbiamo stampate, e quindi nelle sale interne dell'appartamento bellissimo. Che ora è la nostra sede, potrete ammirare queste bellissime foto. E la mostra è aperta in occasione, appunto, delle aperture, degli spettacoli, delle residenze. Quindi non ci sono degli orari di visita al di fuori, diciamo, della vostra programmazione, o si possono prenotare eventualmente? Allora, nel mese di settembre avremo un'apertura il sabato e la domenica dalle 16.30 alle 20, quindi tutti i sabati e tutte le domeniche di settembre. E poi in ottobre ci sarà un programma leggermente diverso, legato al fatto anche che il tramonto arriva sempre prima, e quindi rivedremo gli orari. Sicuramente ci sarà un evento speciale in occasione dell'anniversario della morte di Pasolini, tra fine ottobre e primi di novembre, con delle letture, e che saranno un po' una conclusione anche di questa esperienza della mostra, che è iniziata a maggio e che quindi in novembre poi avrà una sua conclusione. Sono previsti anche due trekking Pasolini, cioè a cura del comune e di Bologna Welcome. Ci sono delle passeggiate dei luoghi pasoliniani, e due trekking che sono in calendario toccheranno anche Villaldini, e si potrà in quell'occasione anche visitare la mostra. Forse racconterei un po' della residenza, che praticamente inizia domani, ed è appunto così vi raccontiamo anche come si svolge. Domani mattina alle 10 accogliamo questi artisti, che sono Diana Dardi e Giorgio Omar McLuffy, e loro con la loro compagnia abiteranno quindi nei luoghi di Villaldini, potranno fare le prove. Noi abbiamo anche una cucina che mettiamo a disposizione degli artisti, quindi possono stare lì, provare, leggere, riposarsi, cucinare, possono mangiare. In questo momento non c'è un'ospitalità, non c'è una foresteria vera e propria, però nel caso di artisti che vengono da fuori prevediamo poi un'ospitalità negli alberghi o nei bed and breakfast. E loro proveranno in questi giorni, stanno tutto il giorno a Villaldini, e a volte ci sono anche scambi con altri artisti che vengono a trovare, eccetera, gli artisti in residenza. E sabato presenteranno una prova aperta. Fantastico, volevo proprio chiedere sabato se presentano anche il teatro la prova aperta. Sì. Cioè, noi abbiamo chiesto che dopo le 5 giornate di lavoro a Villaldini magari potessero presentare qualcosa, anche non di forma compiuta, perché appunto, tra l'altro, Villaldini non è un teatro, quindi non è che ci si può aspettare delle, diciamo, messe in scena, far vedere un work in progress. Esatto, pensate per la scatola sappiamo nera. Sappiamo già anche a che ora, così lo alle 19, così lo mettiamo su esatto, ci sarà la prova aperta di Afferrare Marla, che è appunto questo progetto di Diana e Omar, e appunto è un progetto scritto, tra l'altro una drammaturgia scritta da loro, e che tratta in realtà di temi abbastanza importanti, quali le difficoltà anche legate all'età, all'adolescenza e al nostro posto nel mondo. Quindi i temi delle residenze possono veramente spaziare davvero su, cioè questa osservanza e inosservanza è veramente così ampia nel senso della sua interpretazione, no? Sì, quello che chiediamo alle artiste e agli artisti è proprio quello di mettersi in relazione al luogo. Certo. Cioè non li stiamo ospitando in una scatola nera, appunto, non è un teatro, non è un luogo neutro, è una facciata importante, sembra il Partenone Villaldini, quindi sì, ti può incutere anche un po' di ansia, cioè, un po' di soggezione. Sei di fronte a questo panorama, hai questo prato davanti che abbiamo curato come un bambino, sì, perché mi ricordo non ci si poteva camminare perché quando siamo arrivati a Villaldini c'era un tappeto di vetri e fango, quindi sì, è stata durissima all'inizio per noi raccogliere tutta la quantità di sporcizia che si era creata, e adesso c'è un bel prato dove appunto anche i bambini possono giocare, dove ci si può stendere, dove si può leggere stesi sul prato, e quindi diciamo, il prato è uno dei nostri vanti, vero Gianluca? Bello, bellissimo. Allora sabato 3 settembre tutti a Villaldini a conoscere la nuova residenza. 3 settembre sabato. La residenza quanto dura? Sì. Tutta la settimana, da martedì a sabato, sì. A domenica, okay, in realtà, okay. Poi loro finiranno domenica, però la prova aperta è sabato sera. D'accordo, fantastico. D'accordo. Bello, molto bello. Cosa dici? Metti un altro pezzo? Dai, metti un altro pezzo. Allora, volevo far sentire uno stralcetto mini mini della Montagna Incantata, giusto perché l'avevamo preso, giusto, quindi così lo ascoltiamo un secondino. Treno in partenza per Davos Corp. Hans Castorp, un semplice giovanotto, era partito nel colmo dell'estate da Hamburgo, sua città natale, per Davos Platz nel canton Grigioni. Andava in visita per 3 settimane. Da Hamburgo fin lassù però il viaggio è lungo. Troppo lungo per un soggiorno così breve. Dopo una pausa piuttosto lunga, in quella zona ventosa e poco attraente, si prende una linea a scartamento ridotto. E nel momento in cui la locomotiva, piccola, ma dotata di insolita forza di trazione, si mette in moto, comincia la parte propriamente avventurosa del viaggio. Ecco che abbiamo ascoltato l'inizio proprio di questa Montagna Incantata di cui stavate raccontando. Io prima mi struggo, no? Dal dolore di non averla vista questa prima parte. Recupererai. Assolutamente. Recupereremo al terzo anno, Chiara, quando faranno le maratone 500 più 500. Quando c'è bisogno di avere una prospettiva a lungo termine, no? Questo ci trascinerà con entusiasmo per i prossimi 3 anni in questa prospettiva, almeno me, che sono, come dicevo, una montagna incantatologa. Del resto quello che avete ascoltato è l'inizio, quando proprio il pubblico partiva dall'ingresso e faceva una vera e propria scalata, perché noi alla FUTA gli spettacoli li facciamo itineranti, e quindi dalla biglietteria noi davamo quest'anno addirittura un biglietto del treno stampato appositamente per loro agli spettatori, e i ferrovieri che avete sentito, che ovviamente sono due attori che poi interpretano anche altre parti, timbravano questi biglietti a tutti gli spettatori, quindi di fatto tutti accedevano al Berghof, tutti arrivavano alla Montagna Incantata facendo proprio una salita a piedi, quindi in qualche modo lo spettacolo ha anche in sé un'esperienza. Comprendeva anche gli spettatori stessi. Sì, sì, sì. Fantastico. Tutti al sanatorio. Tutti al sanatorio. Beh sì, è molto attuale, perché c'è il tema della malattia, il tema della guerra, insomma, è bello denso. E invece vedevo che Gianluca fa... Settembrini che ha il compito di educare, influenzare il giovane Hans Castorp e condurlo verso le sorti dell'umanità, fargli capire che cos'è la conoscenza, la letteratura, cerca in tutti i modi di creare un allievo modello, di plasmarlo a sua immagine e somiglianza. Ci riuscirà? Lo scopriremo nel corso delle migliaia, delle centinaia di pagine che ci restano, perché interverranno poi altri personaggi molto influenti. È un romanzo in realtà che noi abbiamo deciso di mettere in scena perché ha a che fare con quello che abbiamo appena trascorso, gli ultimi 2 anni e mezzo difficilissimi soprattutto per chi fa il nostro lavoro. A un certo punto abbiamo pensato quasi che era giunto il momento di smettere, perché non era possibile proseguire dopo tutti questi mesi di stop, e quindi questo libro, che è un libro che è stato scritto dal 1912 fino al 24, con una gestazione molto complessa, che ha attraversato la Prima Guerra Mondiale durante la composizione, in realtà leggendolo ci si accorge che quello che descrive Thomas Mann è un lungo, interminabile lockdown, in cui degli esseri umani riflettono sul tempo, ma riflettono anche sul corpo, su che cos'è il nostro corpo, qual è la nostra relazione con la malattia, e è una generazione che si prepara lentamente ad andare verso una guerra. E quello che abbiamo attraversato in questi mesi, anche negli ultimi mesi con questa guerra atroce che è alle porte della nostra Europa, ci sembrava veramente un tema da affrontare anche con grande umiltà, perché come ha detto Enrica prima, noi non abbiamo mai affrontato un testo che parlasse direttamente della Seconda Guerra Mondiale, certo, all'interno del cimitero, e quindi affrontare invece uno spettacolo in cui una generazione si prepara per andare a combattere in trincea nella Prima Guerra Mondiale crea un cortocircuito molto forte in un luogo dove invece sono seppelliti dei ragazzi già morti. Mamma mia, è fortissimo. Nella Seconda Guerra Mondiale. Soprattutto la cosa interessante di poter ho mezzo interrotto, ma perché sono incline al pianto quando cioè entro tanto in profondità a questi temi, per cui la cosa magica che vorrei aggiungere al vostro lavoro, che assume secondo i miei occhi ancora più valore, è proprio il fatto di poter canalizzare in qualche modo questi temi e riuscire a trovare una forza alla fine creatrice, no? Quindi una nascita da quelli che sono, non so, veramente i punti più bassi della vita, della storia, della difficoltà, trovare invece dei modi per poterla attraversare, e che servono sia a se stessi sia poi al pubblico che lo può vivere come strumento e come momento di riflessione, no? Uno dei personaggi più strazianti è il cugino Joachim. Ormai ti devi rassegnare. Stefano, mi dispiace, questa partita non ci dovevi invitare. No, siamo pesantoni, lo sanno tutti. Questa partita non è la tua. Ormai è andata. Però diciamo che questo personaggio incredibile, che è il cugino Joachim Zimsen, che è un soldato in carriera, a cui è stata stoppata la carriera proprio perché ha una tubercolosi e quindi deve andare a curarsi al sanatorio, non vede l'ora però di tornare a fare il soldato. Infatti Settembrini gli dice: ma tu non vedi l'ora di andarti a far squartare proprio, cioè, per cui è anche incredibile il punto di vista di questi giovani. Hans Castorp fa l'ingegnere, arriva e appunto all'hotel, all'albergo, fa il primo dialogo che ha con Settembrini e fa evidentemente capire che non ha nessuna cultura letteraria umanistica, e Settembrini comincia a prenderlo in giro pesantemente su questa cosa, gli dà proprio dell'ignorante. Quindi è bello, perché in realtà nel corso del romanzo Castorp poi inizia invece a leggere Vado con un pezzo. Vai. Vado con un pezzo. Ti sei rassegnato. Sì, vai. Che così io. Tears for Fears di Woman in Chains. Ah no, pensavo un pezzo della montagna in casa. Speravo che avessi un altro pezzo della montagna in casa. Invece no. E invece vi distrago così. Esatto. Ma no, quando apri il microfono, no, mia, la regola numero uno di Coxo Spaziale è che quando apri i microfoni non lo dici. Che Era bellissima questa conversazione. Stavamo parlando in diretta. Io ho sempre paura che si dica qualcosa che non si può sentire. Esatto, ma il nesso è proprio quello. Ovviamente lo stavamo dicendo. Il nesso è proprio quello di mandare in diretta cose che non andrebbero in diretta. Sono andate o non sono andate? Toglici questa curiosità. Non sono andate, nessuno ha sentito. Tocca riascoltare la puntata su coxospaziale.blogspot.com. Da domattina. No, io sai che adesso confesso una cosa. Che non hai mai riascoltato una puntata in vita tua. Ma come tutti, dai. Io sì. Io sì. Io vengo qui perché voglio ascoltare stasera Coxo Spaziale. Ah, per cui neanche in diretta ci ascolti, cioè non solo non registrati ma neanche in diretta. Ok, vabbè, cioè, questo me lo segno, No, io vengo con la presenza. in diretta come ascoltatore presente, vabbè, insomma. Ci sta, no? Ascoltatore presente, beh, non ascoltatore è male, presente. Potremmo offrire delle piccole residenze di un'ora qui a Coxo. Sì, potremmo farlo. Sarebbe una figata. Potreste anche venire a fare una puntata da Villaldini. Potremmo anche andare a fare una puntata a Villaldini. Per fare Coxo. Ufficialmente invitati, dai. Coxo residenza. Questa era un air, quindi. Questa era un air, per cui è un invito vero. Non può essere cancellato. Mi prendo la responsabilità dell'invito vero. Bella, una puntata da Villaldini, che fra l'altro mi sa che i ripetitori sono proprio lì, eh? Sono proprio lì, infatti, cioè, potrei decidere di interrompere le trasmissioni in ogni momento, ma non lo farò. Ah, ecco, no. Mi stacchiamo la spina. Mi fa piacere che non lo farai. Ovviamente era uno scherzo. Sì, no, anche perché Gozza sta già scalando. Per proteggere. Esatto, per proteggere i nostri ripetitori. Abbiamo ancora 7 minuti di trasmissione. Cosa vogliamo fare un ripassino se ci sono delle cose importanti da dire? Che... No, noi vi raccontiamo qualcosa dell'autunno. Dai, raccontateci qualcosa dell'autunno. Sì. Perché noi che siamo contenti che l'autunno sia così alle porte, però. È vero. Però dai, ci rallegrerete un po' di. Rivaluterei l'autunno come stagione. Mm. Ok. Farei questa operazione di rivalutazione. Mi piace. No, allora, noi da diversi anni facciamo un progetto che si chiama Nidi di Ragno e che viene finanziato dalla Regione Emilia-Romagna con una legge speciale di cui vado molto fiera perché c'è solo in Emilia-Romagna, che è una legge sulla memoria. E noi organizziamo delle camminate in luoghi appunto dove sono avvenuti eventi storici, soprattutto legati alla Seconda Guerra Mondiale. E facciamo delle camminate col pubblico performative, quindi leggiamo delle cose, abbiamo dei musicisti che vengono con noi delle storiche, degli storici, dei paesaggisti, insomma costruiamo un percorso e in quel percorso conduciamo insieme a noi 20, 30, 40 persone e quindi diciamo i nidi di ragno sono 5 appuntamenti nel corso dell'autunno in cui appunto 5 posti della memoria sì, diversi, no? Sì, sì, sì. E appunto quest'anno faremo. Puoi anticiparne uno così giusto per. Dai. Allora anticipiamo forse il primo che facciamo in collaborazione con la Scuola di Pace di Montesole, con cui collaboriamo da tantissimi anni, con Elena Monicelli. Sarà un percorso a Marzabotto. Noi da diversi mesi stiamo facendo un laboratorio che si chiama Le Ceneri di Atena, che è in collaborazione con anche l'area archeologica, il Museo Etrusco, Nazionale Etrusco, e partiremo quindi da Montesole. Sarà un percorso all'interno del parco storico nei giorni dell'anniversario, quindi penso proprio il 2 ottobre, e che prevede letture ma anche un coinvolgimento di un coro di cittadine e cittadini che lavoreranno su alcuni testi di Eschilo e di Pasolini, anche di nuovo per l'anniversario pasoliniano, certo. All'interno del parco. Quindi sarà una giornata che poi si conclude, come quasi tutti i nidi di ragno, con un falò, un fuoco, intorno al fuoco si condividerà un momento diciamo di cibo insieme, del pane o delle castagne e del vino. Quindi è un modo per attraversare la memoria, per tornare sui luoghi, sempre con percorsi diversi, a piedi, molto lentamente, sono percorsi molto molto lenti, che però creano una comunità, comunità, certo. Che un'azione anche insieme di gruppo. Esatto. Perché il camminare ha senso, il camminare, sì. Il camminare insieme, io il percorrere una i luoghi fan di Toroia, esatto, e attraversare zebaldianamente dei luoghi per noi è importantissimo e ci siamo accorti che è una parte fondamentale del nostro lavoro anche teatrale. Non saranno soltanto a Bologna e dintorni, ci sarà un percorso anche a Modena quest'anno e un altro a Ferrara, nei dintorni di Ferrara sul fiume. Quindi diciamo ogni anno cerchiamo di costruire sempre percorsi diversi, siamo al quarto anno ormai, terzo quarto anno, quindi diciamo è un anche si accumula una memoria anche fisica certo. Regionale su questi luoghi della memoria, certo, anche perché i luoghi evocano sempre qualcosa, per cui andare a così memorizzarli con un'esperienza che sia presente che così anacronista in qualche modo può veramente aprirti anche a prospettive differenti sul luogo stesso e sui libri di storia, no? Assolutamente. Posso farti i complimenti per la qualità di questa puntata, mia? Sì, sì, no, devo dire. Vero? Io non ascolto mai. Ti ha piaffato bene, Mi sono trovata bene in questa puntata. Bene, abbiamo fatto perdere ascoltatori, ma va bene così. No, non è vero. Infatti, se qualcuno sta ascoltando in questo momento e vuole scriverci un WhatsApp al 333-180-9494, non risponderemo mai perché sono le 19:57 ci dobbiamo salutare. Però io spero che stia ascoltando Marco Roma perché non scrive da veramente tanto tempo. È vero, non hai mandato un vocale dal 1 agosto. Marco, è sconvolgente perché io ho scoperto, lo diciamo questa cosa, Stefano, sì. Che Marco Roma è un tuo collega. Ma davvero? No. Cioè, è vero. Ma come fai a saperlo? Non lo so, l'ho trovato nelle graduatorie di tecniche grafiche speciali. Ah, non mi ricordo vabbè, ma non è detto che sia lui, scusi. Vuol dire che mi sta stalkerà ed è per questo che ci manda. Cioè, quando dice ti voglio bene, sta parlando di me. Sì, c'è una love story in corso. Un progetto rivolto esclusivamente a te. Tanto cioè, quando canta amore, lo dice a me? A te. Oddio. È una cosa, mi fa piacere. Un happening monocellulare. Cellulare. Un pubblico singolo. Beh dai, allora Marco continua, l'importante è che tu continui a mandare questi audio perché soprattutto perché per darci modo di farci una ragione della fine dell'estate. Sì, infatti. Perché noi comunque lui sempre con è andato in vacanza, lui ha mandato l'ultimo il 1 agosto e secondo me prima del 1 settembre non lo risentiamo. Ma è possibile che il 1 settembre si farà vivo? Speriamo. Cosa facciamo? Sono le 19:59. Salutiamo i nostri ospiti, li ringraziamo. Grazie mille. A voi, noi è stato un piacere. Vi ringraziamo, vi aspettiamo a Villaldini, altrimenti stacchiamo le antenne. Cavoli, ovviamente è uno scherzo. Grazie mille Enrica, grazie mille Gianluca di Archivio Z. Grazie a voi per l'invito, è stato e come un al solito usiamo le parole del nostro fantastico direttore che dice di radiofonia, ascoltiamo la sigla. Va benissimo così. Ha detto solo radiofonia. Non ce l'hai mica fa, è perché sarebbe stata mia ragazza. No, va benissimo. Va bene così. Io ero Mia da Schio su Pien. E io Stefano W. Pasquini. E questa era Coxo Spaziale. Ci sentiamo lunedì prossimo. A lunedì. Ciao. Grazie Chiara di esserci stata. Ciao Chiara. Ci rivediamo fra un annetto. Ok. It's my body, so it's my choice. Jam. She changed her clothes and her name. She starts hormones on Monday, so I'm watching her boys. It's her body, so it's her choice. Go on, girl. Finds out she's pregnant during school orientation. Radio silence from her father. Sweet Laura says, I'm not ready for a son or a daughter. Oh, sweet Laura, rejoice. It's your body, so it's your choice. It's okay, girl. It's your body, so it's your choice.